America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da Washington, Mario Platero. Mi trovo nella capitale americana per seguire più da vicino i lavori della coalizione dei 68 paesi che si sono riuniti sotto la leadership del segretario di Stato Rex Tillerson per trovare il modo per combattere ISIS, per combattere il terrorismo. Però in apertura, subito adesso, più che partire con le tematiche centrali di questa riunione, mi sembra più importante partire con questo inno alla gioia di Beethoven. Ecco, mi sembrava importante partire con questa interpretazione del maestro Gabriele Ciampi, l'inno all'Europa, eseguito ieri in ambasciata d'Italia per celebrare i 60 anni del Trattato di Roma. Ecco, voglio dedicare questo inno, voglio dedicarlo alla Gran Bretagna, che pure ha votato per Brexit, alla Gran Bretagna che è sotto attacco dei terroristi, quella Gran Bretagna che resta per cultura, vicinanza, geografia, tradizione e, diciamolo, lotta al terrorismo vicinissima all'Europa, parte dell'Europa. Mi ha colpito che l'attentato di ieri sia avvenuto proprio nel giorno, nelle ore in cui a Washington c'era questa riunione dei 68 paesi membri della coalizione anti-ISIS, antiterrorismo di matrice estremista islamica. Beh, di cosa si è parlato in questa conferenza? Beh, ci sono due o tre elementi piuttosto interessanti. Tillerson, l'America, hanno portato avanti l'idea di creare delle zone protette, sia in Siria sia in Iraq, dove coloro che sono travolti dalla guerra civile possono rifugiarsi. Dunque, rifugiati a casa e non necessariamente rifugiati fuori dal loro paese. Ci sarà un costo naturalmente, ma consentirà a queste persone, poi quando la situazione sarà normalizzata, di tornare magari più facilmente alle loro case. Si è parlato di ciberterrorismo, perché anche se l'ISIS alla fine sarà sconfitto, se il califfato sarà sconfitto, ieri abbiamo ascoltato un messaggio molto forte. Il messaggio è che il terrorismo continuerà, questi attacchi continueranno ad esserci, dunque dobbiamo abituarci a convivere con questa situazione. In ambasciata ieri c'era il nostro ministro degli esteri, appunto Angelino Alfano, che ha partecipato ai lavori, naturalmente il nostro ambasciatore Armando Varricchio, che ha organizzato questa serata, devo dire molto bella. C'era grande emozione, soprattutto quando tutti si sono alzati in piedi per omaggiare l'Europa, per omaggiare i 60 anni dal Trattato di Roma, e quando Alfano stesso, salutando il pubblico, ha ricordato le vittime inglesi. I want to express to the people of the United Kingdom our solidarity and friendship and reiterate our Ecco, avete sentito, siamo vicini alla Gran Bretagna, ha detto il ministro che ho qui con me ai microfoni di America 24. Partiamo proprio da questi 60 anni, da questa Europa che resiste ma che resta fragile sul piano politico, ma come abbiamo visto ieri purtroppo anche sul fronte dell'attacco del terrorismo. Buongiorno ministro Alfano, cosa significano questi 60 anni dal Trattato di Roma? L'Europa è il più grande esperimento politico istituzionale mai realizzato, perché milioni di persone erano morte durante la Seconda Guerra Mondiale, gli europei si erano uccisi tra di loro, avevano fatto milioni di morti e poi dopo hanno avuto la forza e il coraggio di fare la pace, e facendo la pace hanno realizzato pace e prosperità per tanti decenni. La pace è stata la base della prosperità. Fin quando non c'è stata l'Europa, c'è stata la guerra. C'è stata la guerra per la generazione di mio padre, per quella di mio nonno, per quella di mio bisnonno, e così indietro nel tempo, sempre. Poi è arrivata l'Europa. Ecco, è arrivata l'Europa e facciamo un balzo in avanti, perché ieri in Europa c'è stato un attentato a Londra, Londra che ha fatto Brexit ma che comunque resta almeno simbolicamente parte dell'Europa, e questo attacco è stato proprio nel giorno in cui voi vi siete riuniti qui a Washington. Vede un collegamento tra le due cose? Questo lo accerteranno le autorità londinesi, non sta a me dirlo. Di certo c'è che io vado via da Washington con la consapevolezza, pur di fronte al dramma di Londra, per il quale noi esprimiamo il massimo della vicinanza al popolo britannico e le condoglianze, io vado via con la consapevolezza che quantomeno c'è una rotta da seguire. L'amministrazione Trump sta evidenziando il suo grande interesse per una comune lotta al terrorismo. C'erano quasi 70 paesi rappresentati qui a Washington, e al tempo stesso con una strategia chiara che si fonda sullo scambio di informazioni, sulla cooperazione di polizia, sul rafforzamento delle autorità di polizia interne e anche al tempo stesso su una lotta al cybercrime e al cyberterrorismo, che è straordinariamente importante perché è la nuova leva di comunicazione più efficace anche per il reclutamento. Si dice che appunto in questo momento c'è in corso un attacco a Raqqa, c'è un attacco a Mosul. è che a un certo punto il califfato sarà sconfitto dal punto di vista territoriale, ma che continueranno in qualche modo a fare reclutamento. Lei pensa che appunto col ciberterrorismo si possa superare questo problema? Pensa che sia importante armare i curdi, per esempio, per riprendere Raqqa? Ci vuole un sistema, diciamo, integrato di risposte. La risposta militare è fondamentale, ma non è sufficiente. La risposta di polizia interna è importante, ma non è sufficiente. Così la prevenzione interna è importantissima, ma non è sufficiente, neanche la risposta culturale da sola, che significa un dialogo interreligioso nei singoli paesi per non suscitare crisi di reazione più esacerbate ancora di quelle che per fatto naturale magari si determinano in determinati contesti sociali. L'insieme di queste risposte farà il successo. E hanno vinto tante battaglie i terroristi uccidendo tanti europei e non solo europei in varie parti del mondo, ma come non ricordare prima di ogni altra cosa l'11 settembre qui negli Stati Uniti. Ma quando io penso alla forza delle nostre istituzioni, dei nostri valori democratici, del nostro principio di libertà, io penso che alla fine questi nostri valori e questi nostri principi sono più forti di chi vuole sovvertirli. Dovremo abituarci tuttavia, anche sconfitto il califfato, ultima domanda, a convivere con l'idea che forse il terrorismo può attaccare, ma a non avere paura di questi attacchi, perché come quelli di Londra, in fondo, poi alla fine purtroppo fanno delle vittime, però non dobbiamo aver paura, qualcuno dice, del fatto che possano esserci degli episodi isolati. Lei pensa che sia così? Dobbiamo abituarci in qualche modo a convivere? La paura è un sentimento dell'uomo e quindi non è estirpabile ed è necessario avere consapevolezza che l'unica strada è quella di avere fiducia nel fatto che il lavoro comune dei paesi liberi, democratici e che amano la libertà è un lavoro che consente di sconfiggere il terrorismo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma che rappresenta pur sempre la nuova frontiera. Potete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo ascoltato la musica classica, abbiamo ascoltato Beethoven, ieri in ambasciata abbiamo ascoltato anche altre interpretazioni, ma oggi vorrei tornare a un simbolo della pace, vorrei tornare a John Baez. Ogni tanto vi faccio ascoltare delle canzoni pacifiste che sono, come dire, universali e senza tempo, perché la pace è sempre minacciata da qualcosa, in questo caso dal terrorismo, e di John Baez, We Shall Overcome, riusciremo a farcela. Da Washington è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!